Soffriva la signora Elk, penava. Di questo Andrea se n'era fatto convinto, perché nei limiti in cui la vista gli era consentita, ogni volta che la giovane donna s'affacciava da lì a poco, la vedeva cominciare a tremare tutta e portare una mano alla gola e aprire la bocca come se le mancasse l'aria e diventasse bianca di gesso e poi rossa di fuoco e affannarsi in tutto uguale a un cardellino che mettesse il capino fra le sbarre e vanamente tentasse di allargarle in un già saputo inutile tentativo di fuga. E in quei momenti Andrea ad occhi aperti sognava di possedere il cavallo di Astolfo, la spada di Orlando, così da ammazzare in due colpi gli odiati Barba Bianca, liberare la dolce prigioniera che gli intravisti disegni del Dorè suggerivano nuda e con lei scapparsene sulla luna. Tuzzo ne fa progressi? Domandava qualche volta Gaetano alla moglie. Alquanti, rispondeva la signora Elke nel suo italiano da libro. Ma non diceva quali. I progressi di Totuzzo li faceva soprattutto quando la signora, stanca del troppo parlare, si metteva a prendere aria coi gomiti appoggiati alla finestrina. Un anno dopo che la giovane si era presa cura da lui, Totuzzo, nell'eccitazione della scoperta improvviso di un universo confusamente immaginato e che ora gli veniva presentato in tutta la sua splendente realtà, aveva quasi distintamente detto: «Gioia mia! A distanza di 2 anni, adesso articolava con sicurezza: dammelo! Dammela! Piglialo!» Al terzo piano di Palazzo Barbabianca, proprio sotto il tetto morto, in cui sua moglie si concedeva bisettimanalmente al pietoso esercizio delle lezioni a Totuzzo, Gaetano, inteso Stefano, fervidamente pregava. La sua camera niente riteneva del traffico cui suo padre, Don Totò, e suo fratello Nenè si dedicavano. Non c'erano libri mastri, non c'erano partite doppie, non c'erano ordini inzolfi. Incollate alle pareti centinaia di santine, adatte e pronte per ogni occasione, sorvegliavano e guidavano lo scorrere quotidiano dell'esistenza di Gaetano. Santa Lucia che protegge la vista mia, San Calogero della Marina che fa miracoli sera e mattina, Sant'Antonio che per una messa fa trovare ogni cosa persa, e via di questo passo. Un figlio fissa, del tutto rassegnato lo chiamava Don Totò con un misto d'affetto e di disprezzo. Questo figlio, oramai 25enne, arrivato tardio, quando si era convinto di avere il botto scarico per sempre, era stato un continuo sconforto. Uno che, solo a vederlo, cucco e cingulimingoli, ma da chi aveva preso? Faceva cadere le braccia. Così albino e gracile, che si stancava solo a tagliare il mangiare nel piatto e che si buttava a terra morto di fatica se puta caso doveva tirare un respiro più forte. Mandato a studiare in Svizzera per fare chimica come il fratello maggiore, aveva subito dimostrato che non ce la faceva ad applicarsi. E i professori di Zurigo si erano presi la pena di scrivere a Don Totò, domandandogli se proprio lo voleva vedere cadavero questo suo figlio. E così Gaetano era rientrato a Vegata dopo 2 anni d'estero, non solo con una femmina per mogliera che non si capiva se era carne o pesce, buona certo, e con la giusta faccia di moglie, però irrimediabilmente svizzera, ma si era portato dietro questa specie di mania religiosa che serviva a far contento solo Padre Cannata, l'altro parrino del paese, perché di queste cose di chiesa Padre Imbornone altamente se ne fotteva.